come al signor di Charlus, nemmeno al signor di Vaugoubert piaceva salutare per primo. Entrambi preferivano rispondere, sempre timorosi dei pettegolezzi che colui al quale, altrimenti, avrebbero teso la mano, potesse aver raccolto sul loro conto dall'ultima volta che l'avevano incontrato. Nel mio caso, Vaugoubert non dovette porsi il problema, giacché, non fosse altro che per la differenza d'età, ero andato a salutarlo per primo. Mi rispose con aria stupita ed estasiata, roteando freneticamente gli occhi come se avesse scorto, sia a destra che a sinistra, dell'erba proibita da brucare. Mi parve opportuno pregarlo di presentarmi a Madame de Vaugoubert, prima che al principe, del quale mi ripromettevo di parlargli in un secondo tempo. L'idea di mettermi in relazione con sua moglie parve riempirlo di gioia, per se stesso non meno che per lei, e con passo deciso mi guidò verso la marchesa. Arrivatole davanti, indicò la mia figura con la mano e con gli occhi, e con ogni possibile segno di considerazione, guardandosi tuttavia dall'aprir bocca. Dopodiché si ritirò scodinzolando, per lasciarmi a tu per tu con la moglie, la quale prontamente m'aveva teso la mano, ma senza sapere chi fosse il destinatario del suo amabile gesto, giacché, come mi fu improvvisamente chiaro, il signor di Vaugoubert aveva dimenticato come mi chiamassi, non mi aveva forse nemmeno riconosciuto e, non avendo voluto per cortesia confessarmelo, aveva ridotto la presentazione a una semplice pantomima. Così non avevo fatto nessun passo avanti. Come potevo farmi presentare al padrone di casa da una donna che non conosceva il mio nome? Per di più, mi vedevo costretto a conversare per qualche minuto con Madame de Vaugoubert e la cosa mi seccava da due punti di vista. Non ci tenevo affatto a mettere radici in quella festa perché ero d'accordo con Albertine, alla quale avevo procurato un palco per Fedre, che sarebbe venuta da me un po' prima di mezzanotte. Non che fossi innamorato di lei. Obbedivo, facendola venire quella sera, a un desiderio tutto sensuale, benché si fosse in quel torrido periodo dell'anno in cui la sensualità liberata visita più volentieri gli organi del gusto, cerca soprattutto la freschezza. Più che del bacio d'una fanciulla, ha sete di un'aranciata, di un bagno, se non di contemplare quella luna sbucciata e succosa che dissetava il cielo. Ma accanto ad Albertine, la quale del resto mi ricordava la freschezza dell'onda, contavo di sbarazzarmi dei rimpianti che tanti incantevoli volti non avrebbero mancato di suscitare in me. La serata della principessa infatti era affollata di fanciulle, oltre che di signore. D'altra parte, quello dell'imponente Madame de Vaugoubert, borbonico e imbronciato, non aveva nulla d'attraente. Al ministero si diceva, senza ombra di malizia, che in quella casa era il marito a portare la gonna e la moglie i pantaloni. C'era più verità in questo di quanto non si credesse. Madame de Vaugoubert era un uomo. Che fosse sempre stata, o piuttosto fosse diventata quella che mi appariva, aveva poca importanza, giacché in un caso come nell'altro si era in presenza di uno dei più emozionanti spettacoli della natura, tale soprattutto nella seconda ipotesi da avvicinare il regno umano a quello dei fiori. Nel primo caso, se cioè la futura Madame de Vaugoubert fosse stata sempre così pesantemente mascolina, la natura, con astuzia diabolica e benefica, dà alla fanciulla l'ingannevole aspetto d'un uomo. E l'adolescente che non ama le donne e vuole guarire, ricorre con gioia al sotterfugio di procurarsi una fidanzata che gli evoca l'immagine di uno scaricatore. Nell'altro caso, se la donna non ha sin dall'inizio i caratteri maschili, li acquisisce a poco, magari inconsciamente, per piacere al marito, grazie a quella sorta di mimetismo che fa sì che certi fiori assumano l'aspetto degli insetti che vogliono attrarre. Il dispiacere di non essere amata, di non essere uomo, la virilizza. Anche a prescindere dal caso di cui ci stiamo occupando, chi non ha notato come i coniugi più normali finiscono con l'assomigliarsi, persino a volte con lo scambiarsi le rispettive qualità? un ex cancelliere tedesco, il principe von Bülow, aveva sposato un'italiana. Alla lunga si vide sul pincio di quanta finezza italiana si fosse impregnato il marito germanico, di quanta durezza teutonica la principessa italiana. Per toccare un punto eccentrico rispetto alle leggi che stiamo delineando, tutti conoscono un eminente diplomatico francese le cui origini erano rivelate solo dal suo nome, uno dei più illustri d'Oriente. Con la maturità, con la vecchiaia, si è risvegliato in lui l'orientale che nessuno aveva mai sospettato e, vedendolo, si rimpiange l'assenza del Fez, che lo completerebbe. Per tornare a costumi affatto ignorati dall'ambasciatore di cui abbiamo or ora evocato la figura ancestralmente appesantita, Madame de Vaugoubert incarnava il tipo acquisito predestinato la cui immagine immortale è la principessa palatina, la quale, sempre intenuta da cavallerizza e avendo preso dal marito più che la virilità i difetti degli uomini che non amano le donne, denuncia nelle sue lettere da comare le tresche fra tutti i gran signori della corte di Luigi XIV. A rendere ancora più mascolino l'aspetto di donne come Madame de Vaugoubert si aggiungono poi l'abbandono in cui sono lasciate dal marito e la vergogna che ne provano, tali da infliggere una progressiva umiliazione a tutto quanto vi è in loro di femminile. Esse finiscono così con l'assumere le qualità e i difetti che il marito non ha. Quanto più lui diventa frivolo, effeminato, indiscreto, tanto più loro si trasformano nell'inamabile effigie della virtù che lo sposo dovrebbe praticare. Tracce d'obbrobrio, di fastidio, di indignazione offuscavano il viso regolare di Madame de Vaugoubert. Capivo, ahimè, che mi stava osservando con interesse e curiosità, come uno di quei ragazzi che piacevano a suo marito, uno di quei ragazzi che lei avrebbe tanto voluto essere ora che lui, invecchiando, preferiva la gioventù. Mi guardava con l'attenzione di quelle provinciali che nel catalogo di un negozio di mode scelgono per copiarlo il tailleur che tanto si addice alla graziosa figuretta disegnata, in realtà sempre la stessa in ogni pagina, ma moltiplicata illusoriamente in creature diverse grazie al variare delle pose e delle toilette. L'attrazione vegetale che spingeva verso di me Madame de Vaugoubert era così forte che giunse ad impadronirsi del mio braccio perché l'accompagnassi a bere un bicchiere d'aranciata. Ma riuscii a sottrarmi, adducendo che dovevo andarmene al più presto e non mi ero ancora fatto presentare al padrone di casa. La distanza che mi separava dall'ingresso dei giardini, dove il personaggio in questione stava conversando con alcuni invitati, non era eccessiva. Ma mi metteva più paura che se per superarla mi fosse toccato d'espormi a un fuoco ininterrotto. Molte donne alle quali mi sembrava che avrei potuto chiedere di presentarmi erano in giardino, dove, pur simulando un'estatica ammirazione, non sapevano bene cosa fare. Ricevimenti come quello sono per lo più in anticipo sul tempo. Diventano reali, per così dire, soltanto il giorno dopo, quando occupano l'attenzione delle persone che non sono state invitate. Se un vero scrittore, immune dallo sciocco amor proprio di tanti letterati, leggendo l'articolo di un critico che gli ha sempre attestato la più grande ammirazione, vi vede citati i nomi di autori mediocri, ma non il suo, non ha nemmeno il tempo di soffermarsi su quello che potrebbe essere per lui motivo di stupore. I suoi libri lo aspettano. Ma una donna del gran mondo non ha niente da fare. E se sul Figaro legge «Grande serata ieri in casa del principe e della principessa di Germain», eccetera, esclama «Ma come? Ho parlato per un'ora, 3 giorni fa, con Marie Gilbert e non mi ha detto nulla». E si arrovella per scoprire quale passo falso abbia potuto fare con i Germain. Bisogna dire che per quanto concerneva i ricevimenti della principessa, lo stupore coglieva a volte tanto chi era invitato quanto chi non lo era. Esplodevano infatti nei momenti meno prevedibili e coinvolgevano persone che Madame de Germain aveva lasciate per anni nell'oblio. E quasi tutti in quell'ambiente sono così insignificanti che ciascuno dei loro simili adotta per giudicarli il metro della loro cortesia. Invitato li adora, escluso li detesta. Quanto alla seconda evenienza, va precisato che se la principessa non invitava Certuni, che pure contava fra i suoi amici, ciò dipendeva spesso dal suo timore di irritare Palamed, che li aveva scomunicati. Potevo dunque escludere che Madame de Germain avesse parlato di me al signor di Charlieu, altrimenti non mi sarei trovato lì. Il barone se ne stava adesso accanto all'ambasciatore di Germania, appoggiato coi gomiti alla balaustra dello scalone che dal giardino riconduceva al palazzo, di modo che gli invitati, nonostante le tre o quattro ammiratrici che s'erano aggruppate attorno a lui e quasi lo nascondevano, erano costretti ad andare a salutarlo. Lui rispondeva chiamando ciascuno per nome. E si sentiva così un susseguirsi di «Buonasera, signor Duazé», «Buonasera, madame de la Tour du Pin Verclos», «Buonasera, madame de la Tour du Pin Gouverné», «Buonasera, Philibert», «Buonasera, cara ambasciatrice», eccetera. Era un uggiolio continuo, interrotto da benevole raccomandazioni o da domande che Charlieu, senza poi ascoltare la risposta, modulava in tono raddolcito, artefatto, per esprimere indifferenza e benigno. «Fate attenzione che la piscina non prenda freddo. È sempre un po' umido in giardino. Buonasera, madame de Brun. Buonasera, madame de Mecklenburg. C'è anche la vostra figliola? Ah, il suo delizioso abito rosa. Buonasera, Saint-Germain». Indubbiamente alla base di questo atteggiamento c'era dell'orgoglio. Charlieu sapeva di essere un Garmont, investito di un ruolo preponderante in quella festa. Ma non di solo orgoglio si trattava, e il termine festa evocava di per sé, a un uomo dotato di sensibilità estetica, il senso lussuoso, singolare, che esso può assumere se la festa si svolge, non in casa di persone del gran mondo, ma in un quadro del Carpaccio o del Veronese. Anzi, è ancora più probabile che il signor di Charlieu, da quel principe tedesco che era, si ricollegasse alla festa del Tannhäuser e concepisse se stesso come il margravio che, all'ingresso della Warburg, ha una buona, condiscendente parola per ciascuno degli invitati, mentre il fluire di costoro nel castello o nel parco è salutato dalla lunga frase, 100 volte ripresa, della famosa marcia. Bisognava, tuttavia, che mi decidessi. Riconoscevo, è vero, sotto gli alberi, donne con le quali ero più o meno in rapporto, ma sembravano trasformate dal fatto d'essere dalla principessa e non da sua cugina, e che io le vedessi sedute, anziché davanti a un piatto di saxe, sotto i rami d'un castagno. L'eleganza dell'ambiente non c'entrava per nulla. Anche se fosse stata infinitamente minore che da Oriane, avrei provato lo stesso turbamento. Basta che nel nostro salotto vada via la luce elettrica e si debba sostituirla con delle lampade a olio, perché tutto appaia mutato. Fui strappato alla mia incertezza da Madame de Souvré. «Buonasera», mi disse venendo verso di me. «È molto che non vedete la duchessa di Garmont?» Eccelleva nel dare a frasi di questo genere un'intonazione atta a provare che non le pronunciava per pura stupidità, come chi, non sapendo di che cosa parlare, vi aborda infinite volte citando una relazione comune spesso assai vaga. Nel suo sguardo, per contro, s'accese un sottile filo conduttore che significava: «Non pensate che io non v'abbia riconosciuto. Siete il giovanotto che ho incontrato dalla duchessa di Guermant. Mi ricordo benissimo». Purtroppo, il velo protettivo che quella frase, dall'apparenza insulsa e dall'intenzione delicata, stendeva su di me era estremamente fragile e svanì non appena cercai di avvalermene. Quando doveva appoggiare un'istanza presso qualche potente, Madame de Souvré possedeva l'arte di far credere al postulante che era disposta a raccomandarlo e, nello stesso tempo, all'alto personaggio che non gliene importava nulla, accendendo con questo comportamento a doppio senso un credito di riconoscenza verso il primo senza crearsi alcun debito nei confronti del secondo. Incoraggiato dalla buona grazia di quella dama, le chiesi di presentarmi al signor di Guermant, al che lei, approfittando d'un istante in cui gli sguardi del padrone di casa erano rivolti altrove, mi prese maternamente per le spalle e sorridendo al viso del principe, il quale girato non poteva vederla, mi spinse verso di lui con un gesto di simulata protezione, calcolata inefficacia, che, abbandonandomi alla deriva, mi restituì più o meno al punto di partenza. Tale è la viltà delle persone di mondo.